Fatto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Cari ascoltatori di Effetto Giorno, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento dunque di metà giornata con l'informazione. Ancora oggi alcuni temi al centro naturalmente del nostro palinsesto, al centro dell'attualità, naturalmente il grande tema della migrazione, ma non solamente le iniziative, le decisioni, anche i primi confronti un po' aspri tra governi e sistema centrale di fatto Unione Europea, ma anche molta cronaca. Insomma, tutto questo nello spazio di Effetto Giorno, dove ci sarà come sempre anche il tempo e l'occasione di approfondire alcuni temi che abbiamo scelto. Ma adesso vediamo insieme i titoli. Renzi al contrattacco, il taglio delle tasse, dice all'Europa, lo decidiamo noi, è il 16 dicembre, annuncia il funerale delle tasse sulla casa. Pressione di Budapest sull'Europa, bloccati i treni internazionali dall'Ungheria, intanto la polizia ceca segna con il pennarello i migranti in ingresso. Incendio a Parigi dalle parti di Montmartre, sono 8 le vittime, tra di loro anche 2 bambini e c'è l'ipotesi di dolo. Roma, una macchina in fuga si ribalta e travolge uno scooter, 2 i morti e di nuovo un inseguimento della polizia. Questi alcuni dei nostri titoli e naturalmente avremo modo anche di parlare dell'apertura, della giornata d'apertura del Festival di Venezia, insomma un'offerta ricca anche oggi. E dicevamo in apertura il tema della politica, Renzi dunque al contrattacco che replica all'altolà di Bruxelles sul suo progetto di tagliare le tasse sulla casa. Sentiamo tutto con Elisabetta Fiorito. Sì, non ci sta Matteo Renzi ai moniti di Bruxelles, il Presidente del Consiglio replica all'Unione Europea, quando c'è da parlare di immigrazione quelli di Bruxelles sono tutti in ferie, quando si parla di tasse si svegliano tutti insieme, le tasse ce le abbassiamo da soli, non ce lo facciamo dire dall'Unione Europea, il 16 dicembre gli italiani pagheranno la seconda rata della TASI, quello è il funerale delle tasse sulla casa. Sull'immigrazione Renzi ribadisce che se non ci fosse stata l'Italia, l'ideale europeo sarebbe morto e che dovrebbero sciacquarsi la bocca prima di parlare del nostro paese. È fondamentale che l'Europa si dia una bella svegliata. Rispetto al lavoro arriva qualche buona notizia, se fai le riforme i risultati ci sono, merito del Jobs Act per Renzo. Infine, per Renzi. Infine le riforme istituzionali, l'Italicum non cambierà. Forza Italia ha un'idea della politica come un monopolio. Mentre la discussione sul Senato verte su punti fondamentali. Non si è capito ancora, dice Renzi, cosa succede all'articolo 2, ovvero alle modalità dell'elezione dei nuovi senatori, ma noi vogliamo meno politici e più politica in Parlamento. A te Gigi. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E dunque dicevamo la politica, le decisioni di politica economica e fiscale che ovviamente ci riguardano tutti quanti, ma direi che tutti quanti siamo toccati anche da questo grande evento di questa estate, che naturalmente non è nato quest'estate, ma che quest'estate assume davvero proporzioni importanti, cioè questo flusso di migranti che di fatto viene canalizzato soprattutto in questi giorni lungo la cosiddetta via balcanica. Allora, adesso i paesi particolarmente coinvolti in queste ultime ore sono dei paesi che per certi versi sono sempre rimasti ai margini di questi flussi e anche per questo la situazione è così tesa. Intanto le ultime dicono che il presidente, il premier ceco Sobotka è pronto a far intervenire l'esercito sulla sua frontiera con l'Austria, dice se la polizia non ce la farà noi invieremo l'esercito, tutto questo mentre su richiesta della Germania l'Italia ha comunicato la disponibilità a ripristinare i controlli al confine del Brennero, a sospendere in sostanza Schengen, quindi riproporre quei controlli. Resta anche complessa la situazione in Grecia. Sentiamo. 11 migranti, probabilmente siriani, sono morti, altri 5 risultano dispersi in 2 naufragi avvenuti ieri notte mentre cercavano di raggiungere l'isola greca di Kos. Hamas. 3 vittime erano bambini. E la storia che si ripete, senza tregua. Sono 4.200 le persone arrivate questa notte al Pireo, nel porto di Atene. Un'altra nave con a bordo 2.500 migranti è attesa in giornata. In 23.000 sono arrivati solo la scorsa settimana. Si tratta di un aumento del 50% rispetto alle precedenti settimane. Questo secondo i dati diffusi da Frontex. Atene sta chiedendo che l'emergenza sia affrontata a livello europeo. Emergenza rientrata invece sul canale della Manica, dove questa notte 6 convogli Eurostar Parigi-Londra hanno avuto pesanti disagi. Ci sono delle intrusioni sui binari all'ingresso francese del tunnel, aveva annunciato ieri sera il responsabile di Eurostar. Erano migranti che a piedi tentavano di passare dalla Francia alla Gran Bretagna, superando i controlli dei 1.300 agenti schierati. I treni si sono bloccati, lasciando in particolare un convoglio nel tunnel al buio senza aria condizionata per qualche ora. Il treno è stato poi rimorchiato e riportato in Francia. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tra una decina di minuti ci collegheremo con la stazione Keleti di Budapest, dove la nostra inviata Valentina Forlanetto appunto è da questa mattina e ci racconterà dunque gli sviluppi di questo blocco, sostanzialmente, che vede anche una posizione molto esplicita da parte del governo ungherese, uno strumento di evidente pressione sulla comunità internazionale, sull'Unione Europea. Ma ci torneremo. Intanto, quella di ieri è stata la lunga notte per i precari della scuola online, le fatidiche assegnazioni delle sedi di insegnamento. Ora 10 giorni per accettare la scuola proposta. In caso contrario si perderanno i diritti acquisiti. Migliaia i contatti, evidentemente, sul sito dei ministeri. I sindacati parlano di troppi insegnanti costretti a spostarsi in provincia. La risposta sentiamo della responsabile scuola del PD, Francesca Puglisi, al microfono di Alessandro Mila, naturalmente, 24 Mattino. Quante delle persone, degli insegnanti, questa notte percentualmente si sono visti assegnare una cattedra fuori provincia o fuori regione addirittura? Da ciò che ci ha fatto sapere il Ministero, circa un insegnante su 10. Ci sono due questioni importanti che il Ministero, ovviamente, e anche il cervellone del Ministero ha tenuto in considerazione. Uno, le preferenze espresse in termini di priorità dagli insegnanti tra le 100 province su cui bisognava optare. E inoltre molti di questi insegnanti per questo anno scolastico, anche se firmeranno un contratto a tempo indeterminato nel centro-nord del paese, potranno continuare a svolgere il loro incarico di supplenza annuale cino casa in attesa dell'immissione in ruolo definitiva del prossimo anno. E ora a Parigi, un incendio devastante è divampato nella notte, non lontano, appunto, nel quartiere di Montmartre. Sentiamo allora il servizio sulle conseguenze, che senz'altro drammatiche, avete sentito nei titoli, 8 almeno le vittime, ma sentiamo i dettagli nel servizio. Una persona sospetta è stata fermata per l'incendio di questa notte a Parigi, che ha provocato la morte di 8 persone e che risulta, secondo le prime indagini, di origine dolosa. Già in mattinata il portavoce del ministro dell'Interno, Pierre-Henri Brandet, aveva parlato di elementi forti a sostegno dell'ipotesi criminale. Per ben 2 volte i pompieri, infatti, sono stati costretti a intervenire sullo stesso edificio, alle 2.23 e alle 4.30. È stato il secondo degli incendi, quello che si è propagato su diversi piani. È comunque troppo presto per ricostruire con certezza l'accaduto, ha dichiarato il ministro dell'Interno Bernard Cazeneuve, che ha fatto sapere che diversi elementi sono già sotto l'analisi della polizia giudiziaria. Alberto Battaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora dall'estero, i nazionalisti del Partito Radicale Ucraino escono dalla maggioranza file occidentale, lo ha annunciato il loro leader Oleg Ljashko, ribadendo la sua contrarietà agli emendamenti presidenziali alla Costituzione, che di fatto aprono la strada alla maggiore autonomia per il Donbass, dunque la regione di fatto secessionista nell'est del paese, dove si combatte da ormai più di un anno. Erano state proprio queste decisioni, questi interventi sulla Costituzione, a scatenare 2 giorni fa gli scontri violentissimi con una vittima di fronte al Parlamento. Torniamo in Italia, continua l'omaggio, le visite alle salme di Vincenzo Solano e di Mercedes Ibanez, i coniugi di Palagonia uccisi il 30 agosto scorso nella loro villa durante un tentativo di rapina. Al servizio. Mentre Palagonia si raccoglie per i funerali dei coniugi Solano, uccisi domenica nella loro villetta, nel carcere di Caltagirone si svolge l'udienza di convalida del fermo di Mamadou Camara. Il 18enne ivoriano accusato dell'omicidio della coppia, ospite del centro per richiedenti asilo a Mineo. La guardia preposta al controllo della struttura aveva trovato nel borsone del ragazzo il telefonino, il PC e una videocamera che appartenevano alle vittime, oltre ai vestiti del 18enne sporchi di sangue. L'extracomunitario indossava infatti abiti appartenenti all'uomo ucciso. Gli investigatori non escludono che l'ivoriano abbia avuto almeno un complice. La polizia postale sta analizzando i tabulati del numero di cellulare di Camara per capire chi abbia chiamato nell'ultimo periodo. Dalle prime analisi dell'autopsia, inoltre, è emerso che la donna potrebbe avere subito violenza sessuale. La certezza solo tra 60 giorni, quando saranno depositati i risultati definitivi. Claudia Vanni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel Bresciano adesso, dove un uomo uccide la giovanissima fidanzata e poi si toglie la vita. Non accettava che lei volesse troncare la relazione e così ha ucciso la fidanzata, appena diciottenne, originaria dell'Est Europa. Lui, un 41enne italiano, dopo una discussione l'ha soffocata e poi aggredita con un coltello, quindi si è tolto la vita impiccandosi a un albero. Ad accorgersi dell'accaduto un passante nella campagna isolata di Sedena di Lonato, in provincia di Brescia. All'arrivo del 118 i due fidanzati erano già morti. I carabinieri di Desenzano hanno trovato una lettera scritta dal 41enne a spiegare le ragioni della tragedia. Sarà l'autopsia a stabilire con certezza le cause dei decessi, ma sulla dinamica del delitto sembrano non esserci dubbi. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Roma adesso un'auto inseguita dalla polizia stradale si è ribaltata travolgendo uno scooter. Sentiamo i dettagli nel servizio di Andrea Viali. È finito con un incidente mortale stanotte, un inseguimento nelle strade di Roma. Per motivi ancora sconosciuti, due giovani a bordo di una Fiat Panda non si sono fermati all'alt della polizia stradale. Il loro tentativo di fuga non è durato però molto. Sulla via Cassia, dopo aver sbandato, l'auto si è ribaltata più volte ed ha travolto uno scooter che viaggiava nella corsia opposta. Per il motociclista, un cittadino libanese di 45 anni, non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto sul colpo. Morto anche il ventenne che si trovava al volante della Panda, mentre il passeggero dell'auto, anche lui ventenne, è rimasto ferito ed è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso Venezia. Venezia naturalmente del cinema. La nostra Marta Cagnola, che naturalmente nei prossimi giorni, insomma, ci racconterà dalla Laguna questo grande evento annuale della cultura ma anche del mercato. Adesso ci presenta invece come sarà questa edizione. Sentiamo. Venezia 72 si parte. Cerimonia inaugurale come per tradizione alle 19 in Sala Grande con la madrina di quest'anno, l'attrice Elisa Sednaui. Prevista anche la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che assisterà anche alla proiezione del primo film Everest di Baltasar Kormakur, fuori concorso, film in 3D con Jackie Gyllenhaal e Josh Brolin. Prepariamoci dunque a un capo dello Stato in occhialini, una visione abbastanza sorprendente. Dopotutto lo stesso direttore Alberto Barbera ha da subito promesso una mostra in grado di stupire. 100 titoli tondi tra lungometraggi e corti, nuovi film e classici restaurati e un red carpet che porterà al Lido più star del passato: Kristen Stewart e, a distanza, Robert Pattinson, Johnny Depp, Shia LaBeouf, Tilda Swinton, Diane Kruger, Elizabeth Banks e Mark Ruffalo, che ha subito trasmesso in diretta il suo arrivo su Periscope. Hello Venezia! Hello world! This is Venice. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Seguiremo naturalmente lo sviluppo, la settimana del grande cinema. E adesso invece con Carlo Genta. Ciao Carlo. Ciao, bentornato. Gigi. Dunque, ieri abbiamo parlato di mercati, era la chiusura e di nazionale. Oggi cosa offre il menù dello sport? Beh, oggi il menù dello sport offre un po' quello di ieri. Gran cinema anche sul mercato è stato fatto. Oggi faremo un po' di conti, di numeri, perché non so se lo dicevo ieri a te o in tutti i convocati, comunque l'ho detto molte volte. Sempre qui a Radio 24. Sempre a Radio 24. Il calcio italiano è tornato a spendere un sacco di soldi. Sì, la sensazione è che abbiano giocato un po' tutti sul tavolo verde della Champions League, soprattutto il Milan e l'Inter, la Juventus è l'unica coperta, quindi l'unica che non gioca al buio, però insomma anche per la Juventus 125, perché fuori di metafora al tavolo verde ovviamente le milanesi sono fuori, e quindi sono, è per fuori, l'investimento dell'anno prossimo, perché ormai la Champions League determina il budget di una squadra, determina il budget di una squadra senz'altro, perché la Juventus l'anno scorso ha introitato più di 100 milioni di euro, 120 milioni di euro. Adesso se li è giocati, se li è spesi e può permetterselo. Milan e Inter sono fuori ormai da diverse stagioni, hanno fatto investimenti molto pesanti che andranno coperti l'anno prossimo, soprattutto per l'Inter, perché ha molti obblighi di riscatto. Adesso sono queste formule: mi presti il giocatore, ti do due noccioline, ma i soldi veri te li do l'anno prossimo. E quindi funziona più o meno così. E intanto, l'anno prossimo quindi l'Inter avrà un po' di conti da rispettare. Vediamo chi va in Champions League. Intanto adesso c'è la nazionale che comincia questa coppia di partite domani a Firenze contro Malta. Non è certo un impegno da farci tremare le gambe. E poi il 6 di settembre, sempre in Italia, a Palermo in questo caso, contro la Bulgaria, partita un po' più seria, e sempre nel segno dell'intramontabile Pirlo, che si è fatto il suo viaggio da New York fino a Coverciano, giocherà queste due partite, però è lui il titolare della nazionale ad anni 36. Chapeau. Grazie a Carlo Genta. Allora naturalmente lo risentiamo e lo risentite a partire dalle 14.05. Noi invece adesso ci spostiamo sulle strade italiane per sentire come vanno le cose. Viabilità. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli, oggi al microfono qui a Effetto Giorno. Naturalmente l'immigrazione in primo piano, ma anche le scelte, le decisioni di politica economica del governo, l'avete sentito nei titoli. Renzi dice a lui: il taglio delle tasse lo decidiamo noi, e aggiunge: il 16 dicembre sarà il funerale di quelle sulla casa, staremo a vedere, ma anche del drammatico incendio di Parigi, un edificio vicino a Montmartre in fiamme, 8 morti, anche 2 bambini, e poi molta cronaca. Oggi abbiamo avuto molta cronaca, una delle quali questo terribile incidente durante un inseguimento, 2 morti del tutto innocenti coinvolti appunto nel disastroso tentativo di fuga invece di almeno un criminale alla guida di un'auto inseguita dalla polizia. Ma l'immigrazione, dicevamo, e come vi ho anticipato, adesso ci spostiamo a Budapest, dove la nostra inviata Valentina Furlanetto. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da Maroster, Gigi, buongiorno da Budapest. Siamo proprio alla stazione Keleti, la stazione est della città, della capitale dell'Ungheria. Proprio poco fa c'è stata una manifestazione del gruppo di afghani. Qui, come ieri, gridavano questi profughi in stazione, accampati ovunque in questa stazione che è diventata ormai per giorni, da giorni, il posto dove dormono, dove mangiano, dove purtroppo non trovano un posto dove andare a lavarsi. Abbiamo visto delle scene veramente strazianti di bambini lavati alla fontana pubblica. Gridavano Germania, Germania poco fa, forse le risentirete tra poco. Giardini intorno alla stazione, questi enormi giardini che sono invasi dai bivacchi, arrivano dalla Subotica, all'ultima stazione serba oltre confine. Come sapete la stazione è ancora chiusa a chi non presenta i documenti. Hanno mostrato a noi alcuni di questi ragazzi siriani, per lo più siriani, di avere il biglietto per il treno che li porta a Monaco, biglietto pagato, ma non li fanno passare. Ci sono i poliziotti, abbiamo tentato di parlare con loro, ma gli è stato dato ordine dalla centrale di polizia di non parlare con nessuno. Invece ci sono anche molti volontari, tra cui il volontario Sandov dei Migration Aid, uno dei portavoce. Ci ha raccontato anche che c'è stato un parto ieri proprio qui per terra in stazione, una donna ha dato alla luce una bambina, Fatima, stanno bene. Ovviamente la situazione del parto e in generale di tutti questi migranti è molto molto difficile, sotto il sole cocente, saranno 30 gradi in questo momento di giorno, di notte mi dicono fa molto freddo, alcuni si sono attrezzati con le coperte e le tende che hanno portato i volontari, ma anche le persone ungheresi che arrivano continuamente. Valentina, allora tu hai raggiunto, come immagino molti appunto, la stazione attraversando la città. Quello che vorrei chiederti è: la situazione di Keleti ce l'hai descritta molto bene, ma è circoscritta in uno spazio piccolo, oppure la sensazione che, come alcune fonti hanno descritto, che appunto la perdita un po' di controllo da parte delle autorità ungheresi. C'è una certa incertezza su questo punto. Da una parte si dice un grande effetto di questa situazione caotica è proprio perché vengono tutti concentrati sulla stazione. Che impressione hai avuto? Sono tutti concentrati in questa stazione per lo più perché è la stazione internazionale da cui partono i treni. Okay. Quindi questi migranti aspettano qui per poter eventualmente, anche perché non c'è un ordine di quando riaprirà la stazione. Quindi altrove la città segue il suo corso e in stazione si concentra. Con l'eccezione, Gigi, mi viene da dire, dei giardini Giovanni Paolo II, abbastanza vicini, ma comunque più verso il centro, dove anche lì bivaccano da giorni, mi dicevano da 4 giorni, tutti questi migranti. C'è una manifestazione stasera, mi dicevano, nell'altra stazione, quella ovest, la stazione Niugati, una manifestazione di ONG, di volontari, di popolazione della cosiddetta società civile ungherese, che non sempre, anche dalle testimonianze che abbiamo raccolto, è d'accordo con quello che sta facendo il governo, che inspiegabilmente non lascia passare questi migranti. Inspiegabilmente dico perché hanno il biglietto e perché no, l'Ungheria non li vuole trattenere all'interno del paese. Quindi non si capisce bene perché invece chiuda le stazioni perché se ne vadano. La Germania, vogliono andare tutti in Germania, lo dicevamo, perché la Germania ha sospeso il regolamento di Dublino per i siriani. Qui certo, sono per lo più siriani. Molti sono di questa nazionalità, sicuramente in mezzo c'è l'Austria, insomma una dinamica che probabilmente, ma questo è un mio pensiero, è da almeno 24 ore che ho questa idea, è che il governo ungherese voglia utilizzare anche questa massa umana molto visibile, molto telegenica, per usarla come strumento di pressione internazionale, soprattutto in un dialogo molto complicato che ha con l'Unione Europea. Intanto naturalmente staremo a vedere, Valentina Furlanetto lavorerà nei prossimi giorni su questo tema, quindi ci darà delle informazioni ben più fondate delle mie riflessioni. Grazie Valentina, naturalmente lei tornerà con noi anche perché questo è l'inizio di un percorso che, come sapete, credo Radio 24 ha lanciato nel corso delle prossime 5 settimane per raccontarvi le frontiere esterne dell'Unione Europea. Certo, Budapest è tutt'altro che esterna, Valentina Furlanetto poi sarà a Subotica, sarà in Serbia, dunque quello che accade all'esterno e come questa ondata di pressione, che poi bisognerà anche valutare sui numeri, impatta sull'Unione Europea ma anche sui rapporti tra gli Stati. E io direi che di questo parliamo adesso, anche di questo, con il nostro prossimo ospite, che raggiungiamo all'Università di Oxford, il professor Francesco Billari. Intanto buongiorno. Buongiorno. Professor Billari, mi dica se sbaglio, lei è professore di sociologia e demografia, si occupa di vari temi che guardano la globalizzazione, lo sviluppo umano. Noi l'abbiamo invitata oggi per aiutarci un po' a capire, o meglio a rispondere intanto a una prima questione. Questa situazione in Europa da alcuni viene indicata come una questione di comunicazione e di incapacità di gestione. Uno tra questi è per esempio Nils Muizne, che è il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, che dice: la causa del collasso dei sistemi per gestire l'immigrazione e le domande d'asilo non è l'arrivo dei rifugiati, la vera ragione è politica. Cosa ne pensa? Ha ragione il commissario Muizne. Sì, la questione immigrazione, o in quest'ultimo caso la questione dei rifugiati, è una questione strutturale. Innanzitutto ha delle determinanti di fondo demografiche che sono strutturali e non sono di tipo emergenziale. Quindi finora abbiamo pensato all'immigrazione come emergenza. In realtà ci dobbiamo abituare a un mondo in cui le persone si muoveranno e ci sono delle condizioni strutturali, per esempio la crescita della popolazione africana, che dovremo affrontare per i prossimi decenni. Quindi questo è lo scenario, diciamo. Lei ci sta dicendo sostanzialmente che, mi smettisca, ma insomma, che questo è lo scenario con cui faremo i conti e quindi amministrarlo, gestirlo o meno potrebbe fare la differenza. Io prima dicevo che ho la sensazione che il governo ungherese, nello specifico, stia di fatto trattenendo delle persone che potrebbero proseguire il loro viaggio anche per ragioni politiche. Beh, devo dire che della discussione che viene fatta oggi sulle migrazioni in paesi come l'Ungheria, ma anche nel Regno Unito dove sono, è semplicemente guidata da motivazioni elettorali ancora più che politiche, certo. Quindi il vero problema di fondo è riconoscere il fenomeno come strutturale. A quel punto non ci sono soluzioni immediate e semplici, bisognerebbe sedersi e ripensare radicalmente a quello che sono le nostre società, ma non possiamo farne a meno. Ecco, naturalmente sedersi è un po' quello che fanno per esempio il 14 settembre, lo faranno i responsabili dei 28, ma all'interno di questi 28 il minimo che si possa dire è che le posizioni sono alquanto divergenti. Secondo lei c'è qualcuno che sta prendendo atto di quello che dice, cioè del fatto che c'è un cambiamento strutturale, oppure la preoccupazione dell'elettorato è tale che non siamo neanche alla vigilia di quel punto? Devo dire che la Germania non ha solo preso atto recentemente della situazione, è un po' di tempo che la Germania sta affrontando la migrazione come un fenomeno strutturale, quindi la Germania, con tutti i problemi che ha avuto la Germania in termini di leadership e negatività che è stata trasmessa dal cancelliera Merkel, oggi devo dire che le mie speranze personali come cittadino europeo vanno verso una leadership che è stata capace di vedere il cambiamento sulle migrazioni ben prima di questi giorni. Ecco, delle scelte come quelle della Germania che poi producono anche dei meccanismi che appaiono, come dire, di a prima impressione anche controversi, perché i siriani, certo c'è una guerra, ma nello stesso tempo comunicare sia ai siriani vuole innesca l'accusa, l'ultima naturalmente dell'Ungheria in questo caso, avete creato un canale per cui tutti vengono e cercheranno di fatto di dichiararsi siriani, insomma. Come dire, questi sono gli effetti indesiderati di questa presa di coscienza? Sì, vediamola così. La Germania è un po' che ha delle politiche migratorie pianificate, sono oramai almeno 10 anni. Il discorso della scelta di accogliere i richiedenti asilo siriani è un discorso specifico che è riferito a un'area di guerra. Certo. È chiaro che, di nuovo, quando ci si deve sedere bisogna pensare anche agli effetti indesiderati delle politiche. Continuo a pensare che però dire non fa niente se qualcuno muore purché non sia sui nostri territori e vicino a noi sia una politica quantomeno non molto umanistica. Ecco, in una battuta, la Germania ha detto sta prendendo coscienza, l'Italia com'è? Beh, l'Italia purtroppo sulle migrazioni non è stata mai capace di sviluppare una politica e ancora oggi la politica migratoria non ce l'ha, quindi a maggior ragione non l'abbiamo fatto sulle migrazioni e è anche più difficile farlo nel caso dei profughi. Mi sembra che ci sia un minimo di buona volontà da parte del governo attuale, a differenza per esempio appunto del governo britannico o del governo ungherese, che è il caso estremo. Ecco, quindi vorrei proprio concludere sul Regno Unito, visto che la ringraziandola di partecipare a questa conversazione da Oxford, una posizione davvero che si fa via via più radicale, addirittura con delle comunicazioni che riguardano i lavoranti temporanei all'interno dello spazio europeo. Tutto questo è solo politica o è un cambiamento anche culturale di una grande di un grande paese, insomma, di una grande cultura normalmente proiettata verso il mondo come il Regno Unito? Ma il cambiamento nel Regno Unito è essenzialmente l'assenza di distinzione tra movimenti dentro l'Unione Europea e movimenti dall'Unione Europea. Quindi nel discorso dell'attuale ministro dell'interno Theresa May, gli italiani non sono visti in modo diverso dai siriani, questo è bene che si sappia in Italia, cioè si sta parlando di politiche di chiusura delle frontiere anche all'interno dell'Unione Europea. Chiaramente la propaganda elettoralistica risponde a degli elettori che probabilmente hanno una certa sintonia culturale. Il periodo degli statisti che guidavano l'elettorato sembra purtroppo tramontato anche in Gran Bretagna. Grazie a Francesco Billari, scusate, lo ricordo, è professore, capo del Dipartimento, professore di Sociologia e Demografia all'Università di Oxford, e naturalmente dunque un buon contributo e una prospettiva, avete sentito, anche molto chiaro, no? E dal punto di vista delle politiche naturalmente che vengono annunciate, poi non è che tutto questo sia diventato legge. Italiani, siriani, mi viene in mente da citare il famoso stessa fazza, stessa razza, che era con i greci, ma tant'è, con tutte le conseguenze. Queste sono le scelte, le possibili scelte delle politiche europee nei tempi a venire. E adesso è tempo di sentire insieme come vanno le cose in borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E adesso ripartiamo dalle borse. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli, quando sono le 13.35 minuti, bentornati ad Effetto Giorno. Dunque i titoli ci dicono che Renzi ribatte a lui, il taglio sulle tasse dice lo decidiamo noi, e annuncia il 16 settembre sarà il funerale di quelle tasse. Ovviamente sulla casa anche la situazione in Ungheria, avete sentito la nostra inviata, il racconto della situazione che di fatto rimane quasi immobile proprio alla stazione di Keleti. Intanto nuovi arrivi, poi si moltiplicano i confini lungo le frontiere esterne dell'Unione Europea, ma anche l'incendio drammatico a Parigi vicino a Montmartre, che ha causato 8 morti tra cui 2 bambini, e fatti di cronaca che naturalmente ci hanno riportato a Palagonia, dove questo pomeriggio alle 17 ci saranno i funerali delle 2 vittime di quel terribile doppio omicidio, appunto, che porta le indagini a entrare nel centro, nel CARA di Mineo, quindi naturalmente 10 chilometri circa, 12 chilometri dal luogo del duplice omicidio. Ma questo è anche il day after della scuola, ieri ne abbiamo parlato piuttosto a lungo. Piera Ceci, allora, aspettavamo la notte? E la notte è arrivata. Allora, com'è andata esattamente questa notte? In realtà lo sapremo solo nel primissimo pomeriggio, perché alle 14.30 il ministro dell'istruzione Giannini farà una conferenza stampa in cui proprio illustrerà i dati. Stamattina si è limitata a far sapere che dal punto di vista tecnico tutto è filato liscio, non ci sono stati intoppi, quindi i precari sono riusciti ad accedere al servizio online, hanno ricevuto la proposta di assunzione. Dunque com'è andata? È stata una lunga notte, come c'era da aspettarsi per tanti precari. Molti l'hanno raccontata anche in maniera così ironica in rete, come ormai accade un po' per tutti gli avvenimenti. Sembrava quasi la notte prima degli esami, no? Che raccontiamo qui tutti gli anni su Radio 24. Soprattutto dei professori in questo caso. In questo caso la notte prima degli esami dei professori, quindi Twitter, Facebook, eccetera, da divertirsi. A mezzanotte e un minuto sono arrivate le attesissime proposte di assunzione con indicata la provincia in cui appunto i precari, anzi ormai gli ex precari, dovranno prestare servizio in questo anno scolastico. E lì qualcuno ha cominciato a non divertirsi più. No, non divertirsi più, perché naturalmente ha scoperto, come peraltro era previsto, di essere stata assegnata ad una provincia diversa da quella in cui risiedono. Peraltro la cosa è abbastanza normale, perché era stato chiesto ai precari di indicare una lista di preferenze, quindi se a qualcuno è stato proposto Enna e vive a Genova, vuol dire che comunque Enna in qualche modo l'ha segnalata in questa lista di preferenze. Comunque una lista di preferenze che è andata a scorrere, okay. Più si è in giù nella graduatoria, meno si sceglie evidentemente, come sempre, perché così è previsto. Comunque 16.000 hanno ricevuto questa proposta di assunzione a tempo indeterminato. Ricordiamo, importante, che chi rifiuta, ed è questa la cosa diciamo che preoccupa ovviamente le persone di cui stiamo parlando, perché chi rifiuta o non risponde perde ogni diritto acquisito. Eccezione fatta per chi ha una supplenza annuale o una chiamata da parte di un singolo istituto. In questo caso possono rimandare di un anno il trasferimento pur venendo assunti regolarmente. Quindi insomma una bella cosa la stabilizzazione, che significa dire addio a tanti anni di incertezza e precariato, ma anche in alcuni casi di dire addio alla propria famiglia, appunto come stavamo dicendo. Sentiamo che cosa ci ha raccontato Fabio Miceli, insegnante di strumento musicale alle medie a Ravenna. Tra l'altro Miceli è sposato. Allora, abbiamo ricevuto la proposta in ruolo e ovviamente non sappiamo se accettarla perché i chilometri dal posto dove mi trovo sono tantissimi. Di conseguenza si spera in una chiamata d'istituto per mantenere il posto di ruolo senza rifiutarlo e rimanere dove mi trovo. Lei dove abita e quale sede le è stata proposta? Io abito a Ravenna e mi è stata assegnata Caltanissetta. E il mio spostamento prevede un allontanamento dalla famiglia. Quanti anni di precariato ha alle spalle? 8. Quindi lei spera in una chiamata dagli istituti di modo che possa slittare di un anno. Esatto, pur accettando giuridicamente la proposta di ruolo. Sarà contento però finalmente di essere stabilizzato? Aspettiamo per dire questo. Vediamo come finirà. Allora, queste le parole invece di Matteo Renzi questa mattina. Le polemiche sono naturali, ma è giusto dire che sulla scuola ci sono 100.000 posti di lavoro in più. È la prima volta che l'Italia mette più soldi sui propri figli, in effetti è così. A questo punto, però, per sapere davvero com'è andata e quindi per avere i numeri precisi, aspetteremo oggi pomeriggio la conferenza stampa del ministro Giannini. Io ho una domanda, come a scuola. Vai. Ma questo spostamento, nel caso specifico questo signore Ravenna, Enna, insomma un problemino c'è. Ravenna, Caltanissetta. Caltanissetta. Allora, fermo restando che l'accento non era esattamente di Ravenna, vabbè, forse il signore è di Caltanissetta. Ha deciso di starsene a Ravenna, ma la domanda mia è questa: lui rimarrà, cioè adesso diciamo accetta di andare in Sicilia, di tornare in Sicilia, ma ci deve rimanere per quanto? Per tutta la vita? Ci deve rimanere fino a che non chiedendo il trasferimento non si libererà un posto su Ravenna. E quanto è difficile ottenere un trasferimento? Boh, si riapre un interrogativo. Beh, sicuramente si parla di anni, insomma. Di anni, d'accordo. Grazie Piera, buon lavoro naturalmente per questa... Grazie a te. Settimana che, come dire, questa settimana per quest'anno scolastico così interessante anche sul piano della riforma, naturalmente continueremo a occuparcene. E adesso cambiamo tema, prima di andare negli Stati Uniti torniamo sulla sponda meridionale del Mediterraneo. Ieri ne abbiamo parlato con la professoressa Luisa Musso, che ringrazio di essere ancora con noi questa mattina. Grazie a lei. Professoressa Musso, ieri parlavamo soprattutto in relazione alla minaccia dell'ISIS, che è a dir poco la furia iconoclasta di questi estremisti terroristi che ricordano, mi è venuto in mente per associazione, lei è una storica, magari mi dica se è corretto, mi fa pensare alla crociata del 1206, cristiani contro cristiani che devastano l'intera Istanbul bizantina, ma tant'è, poi possiamo pensare a Bagram, insomma, quando l'estremismo se la prende con l'archeologia. E parlavamo di Leptismania, che non è distante da Qums, e Qums in Libia è comunque una zona non lontana dalla minaccia dell'ISIS. Qual è la situazione che lei conosce? Beh, la situazione è molto difficile da valutare, perché le informazioni che arrivano non sono univoche. C'è sicuramente molto allarme, soprattutto per la sicurezza delle persone. Quindi quello che si sa è che ci sono state delle scomparse di persone, pescherecci che non hanno fatto ritorno. Si teme che questi pescherecci siano pervenuti in mano, siano stati presi da trafficanti, e questo e con uccisione anche di libici. Quindi che l'attenzione è anche molto orientata sulla situazione locale, cioè più certo, o comunque anche sui monumenti, ma c'è anche un allarme sul fattore sociale, umano, eccetera. Molto alto, perché... Prego. Mi dica. No, perché dicevo, poi quando purtroppo le due cose tendono a convergere, abbiamo visto a Palmira non solo c'è stata una devastazione, ma c'è stato un omicidio anche spettacolarizzato addirittura di un vostro collega con una competenza archeologica a livello mondiale, che è stato decapitato e mostrato. Quindi, come dire, è chiaro che c'è un problema che non è di ordine pubblico, ma è di guerra. Quello che lei ricordava è giusto, ed è, il problema è l'infatizzazione che ricevono, che è nuovo, un fattore rispetto ai casi storici che lei citava, cioè il timore è che si voglia spettacolarizzare l'attacco e, certo, quindi naturalmente puntare su qualcosa che per l'Occidente è importante, anche per i libici ovviamente, per chi vive là, ma là ci sono anche delle altre urgenze. Per noi purtroppo, e sottolineo purtroppo, naturalmente siamo più proiettati verso il fatto culturale, verso il fatto storico, verso l'importanza della città, e quindi lì lo capiscono molto bene le persone che attaccano e quindi vanno a a inserire proprio in questo settore, in questo segmento. A colpire proprio su quel nervo. Esattamente, quel nervo, perché sanno che per gli occidentali, tra virgolette, è un elemento importante, un fattore importante, un fattore identitario, perché molti di noi si riconoscono nella cultura classica, fa parte dell'Occidente, certo. No? E questo l'hanno capito e quindi lo usano in maniera strumentale. Ci sono altre zone nel Mediterraneo che a suo avviso dobbiamo quantomeno tenere d'occhio, diciamo? Assolutamente, per... a cominciare dalla Siria, è drammatica la situazione, forse ancora più in un certo senso della Libia, cioè quello che sta succedendo a Palmira è un disastro. E soprattutto ci sono anche delle zone importantissime, quelle di Aleppo. Di Aleppo nessuno ne parlano poco, male. Cioè i danni subiti da queste città siriane, che non sono solamente archeologici, ma sono siti archeologici. Il mercato di Aleppo, non so se lei ha avuto modo di vedere, è una cosa strepitosa, cioè si respirava veramente un'atmosfera da fine dell'Ottocento, no? Tutto questo è bruciato, finito, quindi sono tutti perdite gravissime. Cioè è vero il tempio di, ma anche il tessuto urbano, cioè queste città sventrate, non esiste più niente, macerie, no? Macerie della cultura, dei diritti. Io ringrazio la professoressa Luisa Musso di aver contribuito anche oggi, come dire, a questi frammenti che ci ricordano sì l'attualità e come peraltro detto da lei, quindi un'archeologa che dice giustamente, ci sono le pietre da una parte, ci sono le persone, ci sono i mercati che le vivono. Grazie davvero, e adesso aggiornamenti per chi è in viaggio, poi ci spostiamo negli Stati Uniti.